Signore e signori, da Catania, Sicilia, Antonio Goco, apicoltore. Antonio. Dai, vai. Vabbè, tanto siamo in intimità. Io farei, se siete d'accordo, una breve introduzione e poi magari subito 5 minuti e dopo vediamo magari questo video che un paio di anni fa abbiamo realizzato con un mio amico e che poi è andato su Geo in Geo, questo programma pomeridiano di Rai 3, e che quindi ha un taglio, diciamo, pomeridiano. Mi chiamo Antonio Goco, sono apicoltore, o almeno ho a che fare con le api da 27 anni, e soprattutto in Sicilia, anche se poi per lavoro ho avuto la possibilità, la fortuna di seguire le api anche in altre parti del mondo. Laura accennava prima alle difficoltà che negli ultimi anni ci sono nel mondo dell'apicoltura. Non so se fra di voi ci sono degli addetti ai lavori. In realtà quello di cui mi preme parlarvi è della grande fortuna che abbiamo, diciamo, a fare questo mestiere, della possibilità che abbiamo di continuarlo a fare cercando di promuovere iniziative come quella di questi tre giorni, in cui produttori e consumatori si trovano insieme e riescono a conoscersi e riescono a programmare un futuro per entrambi. Io pratico l'agricoltura biologica e proprio in questo senso da un po' di anni Laura ci è venuta a trovare a Catania, al nostro mercatino. Organizziamo un mercatino del biologico che, pur avversato dalle istituzioni, ha un successo sempre maggiore. Ora lo facciamo sia a Catania che a Messina, abbiamo iniziato a Siracusa, si chiama Aferabio, e sempre in questo senso, cioè nell'unire sempre, nel conoscerci meglio sempre fra campagna e città, da un paio d'anni abbiamo costituito un consorzio fra produttori di miele, nel mio caso, e soprattutto di agrumi, ma anche di altri prodotti. Ci sono dei biscotti di una cooperativa sociale che lavorano nel carcere di Siracusa, c'è una linea che si chiama Dolci Evasioni. E anche quello, anche lì la stessa cosa, appunto, cercare questa collaborazione, questa alleanza fra produttori e consumatori. Io ho ricordi di alberi di arancio e di fiori di arancio che grondavano nettare, e che ormai da diversi anni, prima nel periodo della fioritura, alcune volte si andava a fare una potatura degli agrumi, e i potatori alcune volte li vedevi che avevano la camicia non solo grondante di sudore, ma talvolta proprio il nettare era così abbondante che ci mettevi le mani addosso e stavi un po' appiccicato. Da quest'anno è stata la peggiore, diciamo, annata a 30 anni a questa parte a livello di produzione. Noi non abbiamo avuto le stesse difficoltà che i nostri amici del Lombardi e comunque del Nord Italia hanno avuto con la vicenda dei neonicotinoidi. In realtà questa problematica ci aveva interessati, anche se marginalmente, alcuni anni fa, perché diverse colture e in particolare sui limoneti si usavano delle molecole che appartenevano a questa classe di insetticidi neonicotinoidi e che provocavano gli stessi effetti. Io personalmente sulla mia pelle queste cose l'ho vissuta 6 o 7 anni fa, per cui andavi alle api contento perché c'erano delle famiglie belle, numerose, abbondanti, eccetera, e poi dopo qualche settimana, pur continuando nelle condizioni esterne favorevoli, quindi temperatura ideale, fioriture abbondanti, man mano trovavi gli alveari spopolati. E in realtà poi le problematiche dell'apicoltura sono molto ampie e comunque sono le problematiche dell'ambiente. Quindi probabilmente il nostro è un settore che più di altri ci dà è un termometro di quello che succede negli ambienti e anche gli ambienti rurali o anche gli ambienti comunque naturali soffrono. Perché lo sappiamo bene, perché quindi il problema non è, almeno il nostro, non è tanto di stabilire causa-effetto. Cioè sicuramente sappiamo che non stiamo trattando bene l'ambiente, quindi dal nostro punto di vista di allevatori sappiamo perché succedono alcune cose, e devo dire che comunque anche gli apicoltori e anche noi apicoltori non siamo, abbiamo anche le nostre responsabilità. Comunque io vedrei questo filmato che dura 20 minuti e poi chiaramente se ci va di discutere insieme su alcune cose siamo qua.